In viaggio con Tommy, alla scoperta dello straordinario perduto di Gianluca Nicoletti. Ti piace? Guarda, c'è il castello, vedi là, Tommy? Vedi? Sì. Cos'è? Il castello di Ischia, quello, vedi? Ti piace? Sì. Facciamo una foto adesso? Sì. Ci saranno i pesci? No. Secondo te ci sono i pesci? No, non lo so. Non sai se ci sono i pesci? Forse sì, forse no, non si sa. Non è che necessariamente nel mio viaggio con Tommy io mi sento obbligato a seguire itinerari che forzatamente devono condurmi verso persone che facciano cose o abbiano rilevanza. Qualche volta abbiamo deciso di andare alla deriva e seguire il flusso del punto di vista di Tommy, dei suoi pensieri, della sua visione obliqua, balzana, saltellante sulla realtà. E per questo siamo saliti su un traghetto e ci siamo avviati verso un'isola. Un'isola con sopra un castello, un'isola circondata dal mare. Il castello, il mare, l'isola sono tutti elementi spesso presenti nell'immaginario di Tommy, elementi che lui dipinge, raffigura. I castelli riempono molte volte i suoi disegni, le sue pitture, soprattutto i castelli legati all'immaginario che lui frequenta, guardando ad esempio e riguardando più volte i film di Harry Potter. Harry Potter lo guarda il venerdì a scuola, è la gratificazione che gli viene concessa alla fine delle lezioni, e poi disegna tutti i personaggi di Harry Potter, e al centro ci sono sempre castelli, cavalieri, draghi che sputano fuoco. Siamo sul traghetto per Ischia, andiamo a Ischia. Il prossimo shooting lo faremo a Ischia. Saranno due belle giornate, anche perché c'è un grande sole. Il primo vero e unico problema nella gestione di Tommy è stato che lui associa il traghetto al traghetto della Moby che prendeva da piccolo per andare in Sardegna, che aveva raffigurati alcuni personaggi, tra cui Titti e il gatto Silvestro. Quindi per lui il traghetto deve corrispondere a Titti. Ma questo traghetto che va a Ischia non è il traghetto che va in Sardegna, e quindi non c'è Titti. Quindi è stato un po' difficile spiegargli che questo è un traghetto senza Titti. Tommy, c'è Titti? È Titti. Dov'è? Peggio Titti. E dov'è Titti? Non Titti. Ma vuoi il traghetto con Titti? Guarda, non Titti. Cos'è questo sotto? È il mare? Sì. Ti piace? Sì. Guarda le montagne lontane, vedi? Sì. Sono offuscate dalla nebbia, però c'è il sole. Di che colore è la schiuma del mare? Che colore è? Di che colore? Bianco. Qua sotto è bianco, laggiù com'è? Lontano invece? Blu. Blu, bianco e blu, vedi il mare, vicino è bianco e lontano c'è, è blu. C'è. E lontano è blu. Il sole. Il sole dov'è? Le nuvole. Dov'è? Le nuvole? Dov'è? No, nuvole, no. Dove sono le nuvole? Non lo so. Negli elementi comuni dei quadri di Tommy, qualunque cosa lui rappresenti, fa sempre il cielo con il sole e con due nuvole. Le nuvole sorridono. Perché? Perché sono le nuvole della pimpa, che normalmente sorridono. E a 22 anni ancora per Tommy le nuvole sorridono. E anche in un cielo terzo del mare che stiamo attraversando per andare a Ischia, lui comunque vede le nuvole che sorridono. Beh, è giù. Ci sono le nuvole? No. No, niente nuvole. Il mare è un altro elemento presente nell'immaginario di Tommy. Tommy, come molti autistici, è un essere acquatico. Tommy può stare sommerso nell'acqua, nella posizione del loto, e galleggiare così felice e contento. Una volta comprai appositamente una piccola telecamera GoPro proprio perché volevo vedere cosa facesse sott'acqua. E ho guardato quello che lui faceva, evoluzioni, capriole, come se non avesse mai bisogno di riprendere aria. E sorrideva, era felice. Non ho mai visto una persona ridere sott'acqua. Rideva come se stesse galleggiando in cielo. Quindi la sua emozione nello scendere a terra e salire lungo le scalinate del grande castello aragonese, un po' la gloria dell'isola di Ischia, è stata un'emozione fortissima. In quel castello c'è di tutto. C'è una mostra con le macchine da tortura, in cui può vedere tutte le cose orrende che fanno parte anche quelle del suo immaginario. Le segrete con le macchine di ferro sono anche nei film della Disney, ma in Harry Potter c'è una grossa produzione di luoghi sotterranei ed orrifici, e a lui piace ripercorrere nella realtà condivisa con noi le tante realtà che frequenta nel suo modo disparato e singolare di concepire quella linea ineffabile fra mondo concreto, mondo irreale, residenze parallele della nostra immaginazione, che noi siamo abituati a considerare come qualcosa d'altro rispetto a quello che viviamo quotidianamente, ma per Tommy sono tutti sullo stesso piano: favola, fantasia, realtà, romanzo, incubo, paura, gioia, tutto contemporaneamente. E quindi portare Tommy all'interno del luogo più fosco del castello aragonese, che è il sotterraneo con lo sgocciolatoio delle suore Clarisse, dove vengono messe le suore morte, era il memento mori perenne in cui venivano provate nella loro fede le novizie. Mi ha fatto pensare che in fondo il senso del folle e il senso del retto hanno nei secoli cambiato la loro destinazione in maniera radicale. Penso che in quell'epoca per Tommy, così come oggi, sarebbe stata una vita difficile. Magari qualcuno avrebbe pensato che la sua stranezza, la sua regolarità, il suo essere così diverso nei pensieri, nei modi d'essere, nelle angosce, il suo non saper parlare fosse magari frutto di qualche diabolico connubio. E Tommy magari sarebbe stato rinchiuso in qualche segreta o sarebbe stato magari eliminato proprio perché figlio di un demonio. In realtà è figlio mio e non cambia molto. E pensavo che invece le ragazze sue coetanee, se fossimo nati nel 1500 e ne avessi avuta magari una per figlia, sarebbero state, se non all'apice dei loro diritti, quindi in età e condizioni per essere appetibili come spose, sarebbero diventate clarisse, sarebbero state chiuse nel convento. Le ragazze cosiddette normali, con cervelli regolari, sarebbero state condannate a subire questa sorta di prova terrificante di vivere a contatto con la putrefazione delle loro consorelle anziane morte. Una società in cui cervelli ribelli come quelli di Tommy sarebbero stati guardati con sospetto e probabilmente messi a rogo. Ragazze con cervelli perfettamente in linea con quella che era la regola erano rinchiuse in un luogo in cui dovevano salvarsi l'anima, e in assenza totale di colpe da parte loro venivano anche costrette ad entrare in quel sotterraneo triste con tanti troni di pietra con un buco e osservare ora dopo ora la lenta putrefazione e il disfacimento delle carte delle altre suore, per capire che questo mondo altro non è che luogo di sofferenza e ambire a una possibile salvezza in un'altra vita. Cazzo. stata totale. Il mantra di Tommy. No, veramente, ma sei stato in un monastero zen, esattamente così. Quando pregano è così. Ci siamo lasciati alle spalle Ischia con il suo castello e ci siamo diretti verso la Puglia, regione che Tommy conosce bene per lunghe e indimenticabili estati salentine. Finché lui era piccolo lo abbiamo portato nella parte estrema della provincia di Lecce. Ma oggi invece siamo andati a Noci, che è in provincia di Bari, è immerso nella campagna, e siamo andati a visitare la masseria Cultura, che in realtà è un'antica casa vinicola. Immaginate un grande parallelepipedo di pietra circondato da trulli, dove hanno eletto la loro dimora artistica un gruppo di ragazzi che viene da Milano. L'ispiratore della loro transumanza è Jacques Léo, che ha fondato un'associazione, un artista, uno scultore, e con un gruppo di suoi amici artisti ha pensato di installarsi in questo casale, un casale che è stato abbandonato da tanti anni, era un magazzino per macchine agricole, e oggi lentamente, grazie anche al lavoro manuale di questi ragazzi, sta diventando l'atelier per degli artisti. Loro vogliono portare un'idea di arte che mi sembra molto folle e molto simile a quella che è l'idea del riscatto dei cervelli ribelli. Quindi sono andato a trovarli e ho fatto passare a Tommy una giornata assieme a loro. Jacques Léo non ha per nulla l'aspetto di un aspirante contadino, però sembra ben motivato e sembra deciso comunque a rimboccarsi le maniche e a lavorare su quelle pietre perché diventino qualcosa che prima non esisteva in quell'agro di Noci. Cosa ci fa un artista milanese qui in mezzo alla campagna pugliese? Bella domanda. Io conosco da quando sono bambino queste terre, e nella visione, diciamo, polare della visione della città e della campagna che ho sempre vissuto sin da bambino, ho scelto assieme a un collettivo di amici e artisti di realizzare nella campagna un polo artistico-culturale in un luogo molto particolare, che è quello della zona dei Trulli. Luogo dove è ricchissimo di turismo, ricchissimo, famoso in tutta Europa, in tutto il mondo per i Trulli, appunto, per questo paesaggio mozzafiato, però privo dei servizi artistico-culturali costanti, presenti tutto l'anno. E la nostra, diciamo, mission associativa dell'associazione è quella di identificare nella natura, in una antica struttura storica quale questa masseria, un polo attrattivo culturale al servizio sia di chi è del territorio sia di chi viene a visitare il territorio, per cui per quello che possiamo definirlo per il turismo culturale. Ecco, sei d'accordo con l'idea che stiamo seguendo un po' noi, che il bisogno dell'arte è un bisogno primario, pare a quello del nutrimento, del sostentamento? Perché io sono qua con mio figlio proprio alla ricerca di una dimensione artistica per persone che altrimenti non avrebbero nemmeno diritto di inclusione sociale. Anche questa è una bella domanda. Per noi l'arte è figlia della cultura, e la cultura è colere, etimologicamente, cioè deriva dalla pratica della cultura. E questo luogo, è come poi luoghi, diciamo, vicini a questo tema, devono essere in grado di nutrire sotto tutti gli aspetti chi vive le attività al suo interno. Motivo per cui noi abbiamo voluto farlo nella natura, perché è difficile nutrirsi dal cemento, è difficile nutrirsi e trovare ispirazione e agio nell'artificio della città, mentre nella natura c'è una libertà maggiore nel contatto reale che c'è poi con il colere, con il raccogliere i frutti delle proprie azioni in una maniera più diretta e più semplice. Tommy oramai considera i ragazzi della troupe come dei suoi amici. È il secondo film che fa con loro e lui sul set ormai sembra quasi un attore consumato. Con Nick, il fonico, con Paolo, uno degli operatori, con Massimiliano, il regista, passa giornate intere e loro lo hanno un po' adottato, tanto che molte volte glielo lascio in custodia, fidandomi. A volte faccio bene, perché mi piace vedere Nick, con il suo apparato di ripresa audio raffinatissimo, impegna Tommy in vocalizza due voci. Tommy si diverte a emettere suoni strani e poi a riascoltarli. Ma vedo anche altre volte che si comportano da ragazzacci verso il loro compagno più sprovveduto e lì vedo che in fondo la giovane età che accomuna tutti permette anche che a volte accadano cose che un padre non dovrebbe tollerare, ma che alla fine, anche se fingo di arrabbiarmi, mi fanno divertire. Max, tu hai finito l'architetto? Vieni qua, architetto, anche te, dai. Faccio lei, poi io per la mia parte ho fatto. Mi riassumo, 30 secondi, vieni qua. Scusa, facciamo. C'è un messaggio per te, c'è prima di andare. Per me? Sì. Fammi vedere. C'è solo 8 cazzo. Che hai detto, Tommy? Io ho 2 cazzo. No, dai, adesso gli ho insegnato sta cosa. Dai. Cosa hai detto, Tommy? Ha fatto da solo. Andiamo bene, cosa hai detto? Che frase hai detto? Te ho 2 cazzo. Ma perché gli hai insegnato sta cosa? No, gli ha insegnato a te. Ma lui l'ha detto, ma lui ha detto ripeto. No, non la sapeva questa storia. Ma no. Che non sapeva? Dai, la dice a scuola. Non si, Tommy, non si dice? Dice? Cosa avevi detto? Niente. Non si dice più. Non gli insegnate le parolacce. Ma non gli ho insegnato. Gli ha insegnato a te. Dai Paolo, non l'ho mai detta sta roba. Scusa, non l'ho insegnato io. E gli ha insegnato te. Scusa, non lo faccio più. E lo faccio più. Adesso. No, scusa. Lo dice a scuola, dai. Non si dice, Tommy. Autopugnati per 5 minuti, Tommy. 5 minuti di pugni. Che stronzi ho da te. Cioè ha fatto salti mortali per non dir parolacce davanti a Tommy. Passeggiando con Tommy tra i trulli che lui trova abitazioni singolari, per lui sono le casette dei Puffi, difficile a spiegargli l'origine storica e architettonica di quelle strane costruzioni a forma di cono da gelato capovolto. Per cui abbiamo incontrato un architetto barese, una ragazza che è poco più grande di Tommy, qui comincia a vedere la differenza, Eleonora Lobuono, di origine pugliese, ma anche lei vive a Milano, dove si produce nel suo lavoro, nella sua professione, nei suoi interessi, ha pochi anni più di Tommy, ma già un'affermata architetta e nessuno meglio di lei, passeggiando tra le pietre e di quelle rovine di antiche civiltà, può darmi qualche consiglio su come posso allestire l'atelier di Tommy, che è una costruzione che è affogata nella metropoli romana, ma qualcosa che comunque ricorda nell'umidità delle pareti, nell'essere disadorna, nell'essere abbandonata, quegli antichi trulli che avevano ospitato capre, pecore, pastori, contadini per generazioni, con le mura ancora affumicate dal fuoco acceso che li scaldava la notte, e seduti davanti al mio computer aperto, ragioniamo su una pianta, di un progetto che ancora deve vedere la luce, e ascolto paradossalmente un giovane architetto pugliese che è emigrata a Milano per lavoro e ritornata alla sua terra per consigliare me e Tommy su come costruire il loro luogo delle meraviglie. È uno spazio che può benissimo essere portato al nudo della struttura, togliendo tutte quelle che sono state le, diciamo, costruzioni di muri secondari, proprio per ritornare a quella che è la potenza dello spazio, che viene caratterizzata ancora di più da questo grandissimo lucernario che permette, diciamo, un certo tipo di giochi di luce all'interno di uno spazio che deve essere abitato da ragazzi che hanno bisogno comunque di contatto con l'esterno, pur sempre rimanendo in un luogo che definisce la loro attività. Sì, sui materiali c'è qualche consiglio da darmi? Io lascerei quasi quasi a cemento, così com'è. Sì, i materiali devono essere quelli, diciamo, più grezzi, puri e soprattutto resistenti rispetto a quelle che saranno poi le attività effettuate all'interno dei laboratori, quindi mantenere cemento, magari si può utilizzare un materiale come il legno per delle pannellature provvisorie, per definire gli spazi in base agli usi temporanei. Ti la no. Ehi! Yahoo! Il viaggio con Tommy prosegue. Presto una nuova tappa e nuovi incontri fuori dell'ordinario.